Cristore. Si conclude l'anno liturgico e nel santo sacrificio dell'altare rinnoviamo l'offerta al Padre della vittima, Cristo, Re di santità e di grazia, Re di giustizia, d'amore e di pace, come leggeremo fra poco nel prefazio. Voi tutti, nel considerare la santa umanità di nostro Signore, sentite nelle vostre anime una gioia immensa, un Re dal cuore di carne come il nostro, che pur essendo l'autore dell'universo e di ogni singola creatura, non impone il suo dominio con prepotenza, ma viene come un poverello a chiedere un po' d'amore, mostrandoci in silenzio le sue mani piagate. Perché allora tanti lo ignorano? Perché si sente ancora la protesta crudele «Nolum sunc regnare super nos», «Non vogliamo che regni su di noi». Vi sono milioni di uomini che si oppongono a Gesù Cristo, o piuttosto alla sua ombra, perché non lo conoscono, non hanno visto la bellezza del suo volto, ignorano le meraviglie della sua dottrina. Dinanzi a questo triste spettacolo, mi sento spinto alla riparazione. Dinanzi al clamore incessante, fatto di opere ignobili più che di parole, sento il bisogno di gridare «O portet illum regnare, egli deve regnare!» L'opposizione a Cristo. Molti non tollerano che Cristo regni e gli resistono in mille maniere. Negli orientamenti di fondo della vita e della convivenza umana, nei costumi, nella scienza, nell'arte, persino nella vita stessa della Chiesa. «Non mi riferisco», scrive Sant'Agostino, «ai malvagi che bestemmiano Cristo. Sono rari, infatti, quelli che lo bestemmiano con la lingua, ma sono molti quelli che lo bestemmiano con la propria condotta». Taluni, per una superficiale questione di parole, si sentono infastiditi anche solo dall'espressione Cristo Re, come se il regno di Cristo potesse essere preso per una formula politica, o piuttosto perché la confessione della regalità di Cristo li condurrebbe anche ad ammettere una legge. E infatti non tollerano la legge, nemmeno quella del precetto amabilissimo della carità, perché non vogliono avvicinarsi all'amore di Dio e preferiscono servire soltanto il proprio egoismo. Da tanto tempo il Signore mi spinge a ripetere un grido silenzioso. Serviam, servirò. Chiediamogli di accrescere in noi il desiderio di donazione, di fedeltà alla sua chiamata divina, in semplicità, senza spettacolo, senza rumore, in mezzo alle attività quotidiane. Rendiamogli grazie dal profondo del cuore e rivolgiamogli la nostra preghiera di sudditi, di figli, e la nostra bocca si riempirà di latte e di miele, e sarà dolce per noi parlare del regno di Dio, che è il regno di libertà, la libertà che Egli stesso ci ha conquistato. Cristo, Signore del mondo. Vorrei che considerassimo in che modo il Cristo che abbiamo visto, bambino adorabile, nascere a Betlemme, è il Signore dell'universo. Da Lui sono stati creati tutti gli esseri del cielo e della terra. Egli ha riconciliato al Padre tutte le cose. Ha ristabilito la pace tra il cielo e la terra per mezzo del sangue sparso sulla croce. Oggi Cristo regna alla destra del Padre. Lo dicono i due angeli in bianche vesti ai discepoli che, attoniti, guardano le nubi dopo l'ascensione del Signore. Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Grazie a Lui regnano i re. Ma mentre le autorità umane passano, il regno di Cristo durerà per l'eternità. Il suo regno è un regno eterno e il suo dominio perdura di generazione in generazione. Il regno di Cristo non è un modo di dire o una figura retorica. Cristo vive anche come uomo, con lo stesso corpo che, assunto nell'incarnazione, risuscitò dopo la morte di croce e, unito alla sua anima umana, sussiste glorioso nella persona del Verbo. Cristo, vero Dio e vero uomo, vive e regna ed è Signore dell'universo. Soltanto per Lui permane in vita tutto ciò che vive. Perché allora non si manifesta a noi in tutta la sua gloria? Perché il suo regno, che pure è nel mondo, non è di questo mondo. Gesù aveva infatti risposto a Pilato, «Io sono re, per questo sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». Sbagliavano coloro che si attendevano dal Messia la manifestazione di un potere temporale e visibile, perché il regno di Dio non è questione di cibo o di bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Verità e giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Questo è il regno di Cristo. È l'azione divina che salva gli uomini e che avrà compimento quando la storia terminerà e il Signore, seduto sul suo trono eccelso, verrà a giudicare definitivamente gli uomini. Quando Gesù intraprende la sua predicazione sulla terra, non offre un programma politico, ma dice: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». Affida ai suoi discepoli la missione di dare l'annuncio della buona novella e insegna loro a pregare per l'avvento del regno. Ecco il regno di Dio e la sua giustizia, una vita santa, ciò che dobbiamo cercare prima di ogni altra cosa e la sola cosa veramente necessaria. La salvezza che Gesù Cristo nostro Signore predicava è un invito rivolto a tutti. Il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze. Ecco perché il Signore rivela: il regno di Dio è in mezzo a voi. Nessuno è escluso dalla salvezza, purché si arrenda liberamente alle esigenze d'amore di Cristo. Nascere di nuovo, farsi come i bambini nella semplicità dello spirito, allontanare il cuore da tutto ciò che separa da Dio. Gesù chiede opere e non soltanto parole. Chiede uno sforzo tenace, perché soltanto chi lotta meriterà l'eredità eterna. La pienezza del regno, il giudizio definitivo di salvezza o di condanna, non è data quaggiù, sulla terra. Ora il regno è come una semina, come la crescita del granello di senape. Alla fine sarà come la rete del pescatore, dalla quale, trascinata a riva, saranno estratti e separati per una sorte diversa gli operatori di giustizia e quelli di iniquità. Intanto, finché siamo quaggiù, il regno è simile al lievito che una donna prese e mescolò con 3 misure di farina, finché tutta la massa ne fu fermentata. Chi comprende il regno che Cristo propone, sente che vale la pena dare tutto per ottenerlo. È la perla che il mercante acquista, vendendo tutto ciò che possiede. È il tesoro trovato nel campo. Il regno dei cieli è una conquista difficile e nessuno è sicuro di raggiungerlo. Ma la supplica umile di un uomo pentito spalanca le sue porte. Uno dei ladroni crocifissi assieme a Gesù gli rivolge la preghiera: «Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». E Gesù gli rispose: «In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso». Il regno nell'anima. Quanto sei grande, Signore Dio nostro. Tu dai alla nostra vita il senso soprannaturale e l'efficacia divina. Tu ci fai ripetere, per l'amore a tuo figlio, con tutte le forze del nostro essere, anima e corpo, o portet illum regnare, anche se intanto risuona il motivo della nostra fragilità, perché, lo sai bene, siamo creature, povere creature, fatte di fango, non solo ai piedi, ma nel cuore e nella mente. Forti però della tua divina efficacia, vibreremo soltanto per te. Cristo deve regnare innanzitutto nella nostra anima. Ma come risponderemmo se ci domandasse: «Tu mi lasci regnare dentro di te?» Io gli risponderei che per farlo regnare in me ho un grande bisogno della sua grazia. Soltanto così anche il palpito più nascosto, il sospiro impercettibile, lo sguardo più insignificante e la parola più banale, perfino la sensazione più elementare, tutto potrà tradursi in un osanna a Cristo, il mio Re. Se vogliamo che Cristo regni, dobbiamo essere coerenti, donargli per prima cosa il cuore. Altrimenti, parlare del regno di Cristo sarebbe suono vano, senza sostanza cristiana, manifestazione esteriore di una fede inesistente, utilizzazione fraudolenta del nome di Dio per accomodamenti umani. Se Gesù, per regnare nella mia, nella tua anima, ponesse come condizione di trovare in noi un luogo perfetto, avremmo buon motivo per disperarci. E invece, non temere, figlia di Sion. Ecco, il tuo re viene, seduto sopra un puledro d'asina. Vedete, Gesù accetta di avere per trono un povero animale. Non so se capita anche a voi, ma io non mi sento umiliato nel riconoscermi dinanzi al Signore come un somarello. Sono come un somarello di fronte a te, ma sono sempre con te, perché tu mi hai preso con la tua destra. tu mi conduci per la cavezza. Pensate un po' alle caratteristiche di un somaro, ora che ne restano così pochi. Non pensate all'animale vecchio e cocciuto che sfoga i suoi rancori tirando calci a tradimento, ma all'asinello giovane, dalle orecchie tese come antenne, austero nel cibo, tenace nel lavoro, che trotta lieto e sicuro. Vi sono centinaia di animali più belli, più abili, più crudeli, ma Cristo, per presentarsi come re al popolo che lo acclamava, ha scelto lui, perché Gesù non sa che farsene dell'astuzia calcolatrice, della crudeltà dei cuori aridi, della bellezza appariscente ma vuota. Il Signore apprezza la gioia di un cuore giovane, il passo semplice, la voce non manierata, gli occhi limpidi, l'orecchio attento alla sua parola d'amore. Così regna nell'anima. Regnare servendo. Se lasciamo che Cristo regni nella nostra anima, non saremo mai dei dominatori, ma servitori di tutti gli uomini. Servizio. Come mi piace questa parola. Servire il mio re e per lui tutti coloro che sono stati redenti dal suo sangue. Se noi cristiani sapessimo servire, andiamo dal Signore e confidiamogli la nostra decisione di volere imparare a servire, perché soltanto così potremo non solo conoscere e amare Cristo, ma farlo conoscere e farlo amare dagli altri. Come lo faremo conoscere alle anime? Con l'esempio, come suoi testimoni, offrendoci a lui in volontaria servitù in tutte le nostre opere, perché egli è il Signore di tutta la nostra vita, perché è l'unica e definitiva ragione della nostra esistenza. Poi, dopo aver offerto la testimonianza dell'esempio, saremmo idonei a istruire con la parola, con la dottrina. Gesù fece così. Cepit facere et docere. Prima insegnò con le opere, poi con la sua predicazione divina. Per servire gli altri nel nome di Cristo è necessario essere molto umani. Se la nostra vita fosse disumana, Dio non vi edificherebbe nulla, perché di solito non costruisce sul disordine, sull'egoismo, sulla prepotenza. È necessario comprendere tutti, convivere con tutti, scusare tutti, perdonare tutti. Non si tratta di dire che è giusto ciò che non lo è, o che l'offesa a Dio non è offesa a Dio, o che il male è bene. Però non risponderemo al male con il male, ma con dottrina chiara e buone opere, affogando il male nell'abbondanza di bene. Cristo allora regnerà nella nostra anima e in quelle di coloro che ci sono vicini. C'è chi cerca di costruire la pace nel mondo senza mettere nel suo cuore l'amore di Dio, senza servire le creature per amore di Dio. Com'è possibile realizzare una simile missione di pace? La pace di Cristo è quella del suo regno, e il regno di nostro Signore si fonda sul desiderio di santità, sull'umile disponibilità a ricevere la grazia, su una vigorosa opera di giustizia, su una divina effusione d'amore. Cristo al vertice delle attività umane. Tutto ciò non è un sogno inutile e può diventare realtà se noi uomini ci decidessimo a ospitare nel nostro cuore l'amore di Dio. Cristo, nostro Signore, fu crocifisso e dall'alto della croce ha redento il mondo, ristabilendo la pace tra Dio e gli uomini. Gesù stesso ricorda a tutti: Et ego si exaltatus fuero a terra omnia traam ad me ipsum, quando mi collocherete al vertice di tutte le attività della terra, compiendo il dovere di ogni momento ed essendo miei testimoni nelle cose grandi e piccole, allora omnia traam ad me ipsum, attrarrò tutto a me e il mio regno in mezzo a voi sarà una realtà. Cristo, nostro Signore, continua ad operare la sua semina per la salvezza degli uomini e di tutto il creato, del mondo dunque, che è buono, perché è uscito buono dalle mani di Dio. Fu la caduta di Adamo, il peccato della superbia umana, a rompere l'armonia divina della creazione. Ma Dio Padre, quando giunse la pienezza dei tempi, mandò il suo Figlio unigenito, che si incarnò per opera dello Spirito Santo nel seno di Maria Semprevergine, per ristabilire la pace e perché noi, redenti dal peccato, adoptionem filiorum reciperemus, fossimo costituiti figli di Dio e capaci di partecipare all'intimità divina, affinché all'uomo nuovo, alla nuova stirpe dei figli di Dio, fosse concesso di liberare tutto l'universo dal disordine, restaurando tutte le cose in Cristo, in colui che le ha riconciliate con Dio. A tutto ciò siamo stati chiamati noi cristiani. Questo è il nostro compito apostolico e l'ansia che deve consumarci interiormente. Far sì che il regno di Cristo divenga realtà, che non ci sia più odio né crudeltà e che si estenda per tutta la terra il balsamo forte e pacifico dell'amore. Chiediamo in questo giorno al nostro Re che faccia di noi degli umili e ferventi collaboratori al disegno divino, di unire ciò che è spezzato, di salvare ciò che è perduto, di riordinare quello che l'uomo ha sconvolto, di condurre alla meta ciò che devia, di ricostruire l'armonia di tutto il creato. Abbracciare la fede cristiana significa impegnarsi a proseguire in mezzo alle creature la missione di Gesù. Ognuno di noi deve essere alter Christus, ipse Christus, un altro Cristo, lo stesso Cristo. Allora potremo intraprendere l'impresa grande, immensa, illimitata, di santificare dal di dentro tutte le strutture temporali, portando in esse il fermento della redenzione. Io non parlo mai di politica. Quando penso al compito dei cristiani sulla terra, non lo vedo come lo scaturire di un movimento politico-religioso. Considero questa pretesa una pazzia, anche quando la si rivesta del buon proposito di infondere lo spirito di Cristo in tutte le attività umane. Si tratta piuttosto di aiutare ciascuno, chiunque esso sia, a mettere il proprio cuore in Dio. Cerchiamo dunque di parlare ad ogni singolo cristiano affinché là dove si trova, nelle circostanze che non dipendono soltanto dalla sua posizione nella Chiesa o nella vita civile, ma anche dalle mutevoli situazioni storiche, sappia dare testimonianza, con l'esempio e la parola, della fede che professa. Come uomo, il cristiano ha pieno diritto di cittadinanza nel mondo. Se poi accetta che Cristo viva e regni nel suo cuore, l'efficacia salvifica del Signore si manifesterà in tutte le sue opere. Poco importa che esse siano rilevanti o modeste, perché agli occhi di Dio una vita umana può essere bassezza e quel che chiamiamo umile o modesto può essere un vertice cristiano di santità e di servizio. La libertà personale. Quando il cristiano, come è suo dovere, lavora, non deve sfuggire le esigenze proprie della natura. Se con la frase benedire le attività umane si volesse eludere la loro dinamica propria, mi rifiuterei di usare l'espressione. A me personalmente non convince per niente il fatto che le comuni attività degli uomini portino come etichetta inautentica una qualifica confessionale. Mi sembra infatti, ma rispetto all'opinione contraria, che si corra il pericolo di nominare invano il nome santo della nostra fede. Per di più, non sono mancate occasioni in cui l'etichetta cattolica è stata utilizzata per coprire atteggiamenti e operazioni non del tutto onesti. Dal momento che, eccettuando il peccato, il mondo e quanto vi è in esso è buono, perché è opera di Dio nostro Signore, il cristiano, conducendo costantemente una lotta positiva d'amore per non offendere Dio, deve impegnarsi in tutte le attività terrene, gomito a gomito con i suoi simili, e deve difendere tutti i beni che la dignità della persona porta con sé. Ne esiste uno che bisogna sempre ricercare in modo particolare, la libertà personale. Solo quando si difende la libertà individuale degli altri, pur esigendo la corrispondente responsabilità personale, è possibile difendere onestamente e cristianamente la propria libertà. Torno a ripetere, e ripeterò sempre, che il Signore, che ci ha fatto gratuitamente un grande dono soprannaturale, la grazia divina, ci ha dato anche un gran bene naturale, la libertà personale, che per non corrompersi e diventare libertinaggio, ci richiede integrità, impegno efficace di comportarci secondo la legge divina, perché dove c'è lo Spirito del Signore, c'è libertà. Il regno di Cristo è il regno di libertà. In esso non vi sono altri servi all'infuori di coloro che liberamente si incatenano per amore a Dio. Benedetta schiavitù d'amore che ci fa liberi. Senza libertà è impossibile corrispondere alla grazia ed è quindi impossibile darci liberamente al Signore per il più soprannaturale dei motivi, perché ne abbiamo voglia. Quanti di voi mi conoscono da più anni possono essermi testimoni che ho sempre predicato il criterio della libertà personale e della corrispondente responsabilità. Ho cercato e cerco la libertà per tutta la terra, come Diogene cercava l'uomo. L'amo ogni giorno di più, l'amo al di sopra di tutte le cose terrene. È un tesoro che non apprezzeremo mai abbastanza. Per me, Parlare di libertà personale non è un pretesto per trattare altre questioni, forse molto legittime, ma che non appartengono al mio compito di sacerdote. So che non tocca a me trattare i temi secolari e contingenti, propri della sfera temporale e civile, che il Signore ha affidato alla libera e serena discussione degli uomini. So anche che le labbra del sacerdote, evitando ogni partigianeria umana, devono aprirsi soltanto per condurre le anime a Dio, alla sua dottrina spirituale di salvezza, ai sacramenti che Gesù ha istituito, alla vita interiore che ci avvicina al Signore nella consapevolezza di essere Suoi figli e quindi fratelli di tutti gli uomini, senza eccezione alcuna. Celebriamo oggi la festa di Cristo Re e senza sconfinare dal mio ambito di sacerdote, vi dico che se qualcuno intendesse il regno di Cristo come un programma politico, non avrebbe approfondito la finalità soprannaturale della fede e non sarebbe lontano dal gravare le coscienze con oneri che non sono quelli di Gesù, perché il suo giogo è dolce e il suo carico leggero. Amiamo veramente tutti gli uomini e amiamo soprattutto Cristo. Allora non potremo far altro che amare la legittima libertà degli altri in una pacifica e rispettosa convivenza. La serenità dei figli di Dio. Forse mi direte, ma questo è un discorso che pochi vogliono ascoltare e meno ancora mettere in pratica. Lo so, la libertà è una pianta forte e sana, che mal si adatta a crescere tra le pietre, tra le spine o nelle strade calpestate dalla gente. Tutto ciò era stato annunciato prima ancora che Cristo venisse sulla terra. Ricordate il Salmo II? Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia. Vedete? Nulla di nuovo dunque. Cristo non era ancora nato e già gli si opponevano. Quando poi i suoi piedi pacifici percorrevano le strade della Palestina, lo contrastarono acerbamente. Infine lo perseguitarono, come lo perseguitano ora quando attaccano i membri del suo corpo mistico e reale. Perché tanto odio? Perché tanto accanimento contro la semplicità inerme, tanto disprezzo per la libertà di ogni coscienza? Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami. Vogliono rompere il giogo soave, allontanare da sé il peso, il meraviglioso peso di santità e di giustizia, di grazia, d'amore e di pace. Si irritano dinanzi all'amore e deridono la bontà inerme di un Dio che rinuncia a servirsi delle legioni di angeli per difendersi. Se il Signore fosse propenso al compromesso, se sacrificasse pochi innocenti per soddisfare una maggioranza di colpevoli, forse cercherebbero anche un'intesa con Lui. Ma non è questa la logica di Dio. Il nostro Padre è veramente Padre ed è pronto a perdonare migliaia di operatori di iniquità perché vi siano anche solo 10 giusti. Chi è mosso dall'odio non può capire questa misericordia. Anzi, si sente incoraggiato nella sua apparente impunità ad alimentarsi dell'ingiustizia. Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore, egli parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno. È legittima l'ira di Dio, è giusta la sua indignazione, ma anche la sua clemenza è grande. Io l'ho costituito mio sovrano sul Sion, mio santo monte, annuncerò il decreto del Signore. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. La misericordia di Dio Padre ci ha dato come re suo figlio. Nella minaccia si intenerisce, annuncia la sua ira e ci dona il suo amore. Tu sei mio figlio, si rivolge a Cristo, e si rivolge a te e a me se decidiamo di essere alter Christus, ipse Christus. Le parole non possono tener dietro al cuore che si commuove dinanzi alla bontà di Dio che ci dice tu sei mio figlio, non un estraneo. Non un servo trattato con benevolenza, non un amico, che già sarebbe molto. Figlio. Ci concede di nutrire verso di lui una pietà da figlio e anche, oserei dire, la sfacciataggine del figlio che sa di avere un padre che non gli rifiuterà nulla. Molti si ostinano a comportarsi ingiustamente, è vero, ma il Signore incalza. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra. Le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai. Sono promesse gravi, ma sono di Dio. Non possiamo addolcirle. Non invano Cristo è il Redentore del mondo e regna sovrano alla destra del Padre. È l'annuncio terribile di ciò che aspetta ciascuno quando la vita passa, perché passerà, e di quello che attende tutti quando terminerà la storia, se il cuore si indurisce nel male, lontano dalla speranza. Dio però, che pure può vincere, preferisce convincere. E ora, sovrani, siate saggi, istruitevi, giudici della terra, servite Dio con timore e con tremore esultate, che non si sdegni e voi perdiate la via, improvvisa divampa la sua ira. Cristo è il Signore, il Re, e noi vi annunciamo la buona novella che la promessa fatta ai padri si è compiuta, poiché Dio l'ha attuata per noi, loro figli, risuscitando Gesù, come anche sta scritto nel Salmo II. Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato. Vi sia dunque noto, fratelli, che per opera di Lui vi viene annunciata la remissione dei peccati, e che per Lui, chiunque crede, riceve giustificazione da tutto ciò da cui non vi fu possibile essere giustificati mediante la legge di Mosè. Guardate dunque che non avvenga su di voi ciò che è detto nei profeti. Mirate beffardi, stupite e nascondetevi, poiché un'opera io compio ai vostri giorni, un'opera che non credereste se vi fosse raccontata. È l'opera della salvezza, del regno di Cristo nelle anime, della manifestazione della misericordia di Dio. Beato chi in Lui si rifugia. Pur abbondando l'ingiustizia, e benché siano molti coloro che non desiderano il suo regno d'amore, noi cristiani abbiamo il diritto di esaltare la regalità di Cristo, consapevoli che è proprio nella storia umana, nello scenario del male, che si intesse l'opera della salvezza eterna. Angeli di Dio. Ego cogito cogitationes pacis et non afflictionis. I miei pensieri sono pensieri di pace e non di tristezza, dice il Signore. Siamo dunque uomini di pace, uomini di giustizia, operatori di bene, e il Signore non sarà per noi giudice, ma amico, fratello, amore. Ci accompagnino in questo camminare lieto nella terra gli angeli di Dio. Prima della nascita del nostro Redentore, scrive San Gregorio Magno, noi avevamo perduto l'amicizia degli angeli. La colpa originale e i nostri peccati quotidiani ci avevano allontanato dalla loro luminosa purezza. Ma dal momento in cui noi abbiamo riconosciuto il nostro Re, gli angeli ci hanno riconosciuti come loro concittadini. E dal momento che il Re del Cielo ha preso la nostra carne terrena, gli angeli non si allontanano più dalla nostra miseria. Non osano stimare inferiore alla loro questa natura che adorano, vedendola esaltata al di sopra di loro nella persona del Re del Cielo, e non disdegnano di considerare l'uomo come compagno. Maria, la Madre Santa del nostro Re, la Regina dei nostri cuori, ha cura di noi come lei sola può avere. Madre di compassione e trono della grazia, ti chiediamo di insegnarci a comporre, nella nostra vita e nella vita di coloro che ci circondano, verso per verso, la poesia semplice della carità, quasi fluvius pacis, come fiume di pace. Tutti i fiumi vanno al mare, eppure il mare non è mai pieno, perché tu sei mare di inesauribile misericordia.